Oggi il tasso finito che la banca applica all'impresa è anzitutto funzione del tasso a cui la banca medesima può rifinanziarsi. Non c'è nulla di sorprendente, purtroppo, nell'evidenziare che la crisi degli spread ha equivalso a quando i prezzi del petrolio schizzano alle stelle, no? E quando il prezzo del petrolio schizza alle stelle, purtroppo questo poi ce lo ritroviamo come prezzo maggiorato alla pompa di benzina. Questo è esattamente ciò che si sta verificando in questo momento. L'aumento dei prezzi del credito che si sta registrando in queste settimane in Italia è direttamente, totalmente spiegato dall'effetto rischio paese che sta clamorosamente aumentando appunto i costi di finanziamento.